in nome di quale istituto, ovvero di questo istituto di scienze religiose di Trento, che ha appena 3 anni di vita e in qualche maniera sta muovendo i primi passi, impara ancora a camminare, e che è nato come una funzione, come una creazione non ecclesiastica, non direttamente indirizzata a una finalità pastorale, ma invece come una fondazione schiettamente scientifica di ricerca nel campo delle scienze religiose. Se avete tempo, qualche momento, potete anche dare un'occhiata alla biblioteca che va nascendo qui nei locali adiacenti, ancora in una situazione di inizi, di provvisorietà. Non credo che questa rimanga, anche se è splendida, soprattutto per riunioni come la nostra, in giorni in cui l'estate esplode come oggi, certamente molto più gradevole, ma non pensiamo che rimanga la sede definitiva. Credo che per l'attività degli anni prossimi si penserà a una sede più centrale nel testo dell'ambiente cittadino, vero? E intanto però questa fase di incubazione dei primi passi dell'istituto è stata radicata qui, dove l'istituto convive amichevolmente con l'altro istituto di fisionomia statutaria del tutto eguale, l'istituto italo-germanico, che ha anch'esso qui la sua biblioteca e la sua attività normalmente in questa sala. Ecco, per quello voi trovate le due biblioteche sono anche molto complementari tra di loro, si aiutano una con l'altra. Gli istituti invece sono completamente autonomi uno dall'altro e hanno un comitato scientifico, ognuno per conto proprio, vero? Sono autonomi ambedue anche dalla Università di Trento, però non sono interni all'università, ma sono piuttosto affiancati dall'università e portati dal medesimo Istituto di Scienze, Istituto Trentino di Cultura, che in pratica è lo strumento per la promozione culturale che la provincia autonoma di Trento ha istituito, ecco, e che ha appunto eretto questi istituti di studio accanto all'università stessa, benché abbiano una missione che con l'università certamente diventa complementare, ma statutariamente sono completamente autonomi. Il nostro istituto di scienze religiose, nel comitato scientifico, sono partecipi, oltre alcuni docenti e laureati trentini, come membri estranei, membri non trentini, devo nominare per primo il nostro caro Monsignor Sartori, che ci ha dato in tutti questi anni un aiuto e un appoggio non indifferente, e dall'altra parte purtroppo non hanno potuto essere presente in questa occasione il professor Walter Kern di Innsbruck. Calcolo invece come quelli di casa il padre Ecker, anche se giustamente deve tenere viva la sua prerogativa e la sua fisionomia sudtirolese e non trentina, ma che affettivamente viene considerato come di casa. Ecco, questo un po' di carta d'identità dell'istituto che ha invitato per questa giornata di studio sulla lettura molteplice della Bibbia. Io ringrazio gli intervenuti, ringrazio Monsignor Sartori che ci ha aiutati col consiglio e con l'affetto anche nell'organizzazione e nella partecipazione di questa giornata. Lo avrei già pregato, se siete d'accordo, di pensare a dirigere la tavola rotonda di domani pomeriggio, vero? In quanto abbiamo bisogno di un certo coordinamento, e lo dico fin d'ora perché può darsi che appunto i contatti in questo modo diventano più diretti. E ringrazio poi in particolare il padre Ecker, che in sostanza ha il merito principale di aver coordinato e messo insieme e le proposte e i relatori, i contatti con i relatori, eccetera. Ringrazio i relatori che hanno accettato di presenziare, di partecipare. Non elenco per brevità i nomi dei singoli, ma almeno consentitemi questo direi questo strappo alla regola, di salutare con particolare cordialità il professor Jacob Kremer, che con questa occasione rivedo dopo molti molti anni. Ci siamo conosciuti negli anni 47-50 al Collegio Germanico Ungarico e poi non ci siamo più visti, vi dicevo prima che sarebbe un motivo sufficiente per giustificare la nascita di un istituto di scienze religiose, anche questo, ovvero di riportare a un contatto, insomma, dopo tanti anni e dopo che ha assunto una qualifica ormai così eminente, è vero, che lo distingue nel campo degli studi. Ecco, detto questo, io pregherei il padre Ecker anzitutto di introdurci un poco in tutta la panoramica della giornata e poi avrà la parola il professor Kremer per la relazione di questa sera. Auguro buon lavoro a tutti. Ti vorrei spiegare brevemente quale motivazioni abbia spinto questo istituto a indire questa giornata di studio e poi vorrei spiegare anche meno brevemente le finalità di questo incontro. Come il professore Roger ha già detto, questo istituto è un istituto di ricerca che vorrebbe entrare in dialogo con le discipline affini. E in campo biblico al momento vediamo emergere parecchi metodi nuovi e anche parecchi tentativi di letture della Bibbia. I nomi alle volte sono un po' strani, si vede lettura strutturale della Bibbia, una lettura semiotica, ci sono tentativi di lettura psicologica, tentativi di lettura materialista. Non è solo che nuovi metodi emergono, c'è anche un tentativo di permettere a nuovi strati di cristiani di avvicinarsi più facilmente alla Bibbia. Per esempio, per la lettura materialista in Francia ci sono parecchi gruppi che seguono le indicazioni di Belo e poi leggono la Bibbia in questo. O anche per la lettura strutturale ci sono parecchi gruppi di laici cristiani che si appropriano questo metodo per avvicinarsi in un modo semplificato alla lettura della Bibbia. L'emergere di queste nuove di questi nuovi modi di lettura è anche causato dalle materie affini, per esempio nella linguistica. Basta passare per un seminario, non so, di lettere italiane, anche di lettere straniere, per vedere quanti volumi vengono pubblicati ogni anno su nuovi metodi. Metodi strutturali, adesso un po' il nome generico è quello di semiotica. Mi pare che questo istituto abbia anche questo incarico di cercare il dialogo con queste scienze. Per questo l'istituto ha indetto una giornata di studio sulla lettura molteplice della Bibbia e sono stati invitati dei cultori di queste metodologie nuove. Base comune anche da quanti sono stati invitati, anche base comune dei relatori, e quello è la conoscenza approfondita del metodo storico critico. Quello abbiamo anche per la preparazione, abbiamo pensato, ci muoviamo a quel livello, che sia la conoscenza del metodo storico critico e presupposto. E così i cultori di queste nuove metodologie ci daranno una breve introduzione a metodologie nuove, come ad esempio la lettura simbolica, la lettura materialista, la lettura strutturale. Come sempre non è possibile trattare tutti i modi di lettura, ci sarebbero anche altri, la lettura psicologica, ma dato che è una giornata, comunque una breve introduzione presentando brevemente i metodi, dando anche qualche esempio di una lettura, della lettura proposta. Poi c'è anche il tempo per la discussione, anche per una discussione approfondita, per questo tutti sono invitati a porre le domande, che se alle volte sono delle domande un po' difficili, penso, ma però è questo l'utilità di una giornata del genere, sta appunto che tanta gente qualificata si aduna, e così potremmo, penso, approfondire e mettere a punto questi nuovi metodi di lettura. Questo anche mi pare la finalità ultima di questa giornata, di promuovere almeno un po' le ricerche in questo campo. Per questo anche non è una giornata su un modo di lettura, anche quello si potrebbe fare, ma è piuttosto mettere a confronto i diversi sistemi di lettura della Bibbia. Soprattutto abbiamo scelto dei metodi che si differenziano parecchio dal metodo storico-critico. Penso anche che poi nella discussione si potrà entrare a questa questione, quale sia il rapporto tra i modi proposti di lettura e il metodo storico-critico. Questo mi pare possa bastare per le motivazioni dell'Istituto e anche per la finalità della giornata. Soprattutto poi penso una conclusione, no? Sia anche domani la tavola rotonda finale che possa servire a promuovere questo campo di ricerche, che non so, dissipare dei dubbi e così via. Così la ringrazio e prego il professore Crema di presentarci la sua conferenza. Signor Presidente, cari colleghi e signori, ringrazio prima molto per l'invito e anche per il saluto, e devo anche prego di scusarmi se la mia lingua italiana non è tanto perfetta. Il mio maestro in italiano era Inigio Roccio, ma 30 anni fa. Dunque, il tema, gli ultimi sviluppi di metodologia neotestamentaria presentati su Seconda Corinti 3:6b. Dopo il Concilio Vaticano II, l'adozione del metodo storico-critico aveva trovato una vasta e favorevole eco presso i cultori cattolici del Nuovo Testamento. In questi ultimi anni però, sotto l'influsso della più recente filosofia del linguaggio e della linguistica, sembra profilarsi un ulteriore sviluppo nei metodi interpretativi della Bibbia. Questa mia relazione intende offrire alcune linee orientative in merito. Ne ritengo più che opportuno proprio perché molti esegeti sono piuttosto scettici di fronte agli ultimi sviluppi della metodologia biblica, e non per ultimo perché i rappresentanti di tale metodologia si servono di un gergo tecnico, come per esempio Gutgemans, che a molti suona ostico. A tale scopo vorrei all'inizio tracciare una sia pur rapida panoramica dei metodi tradizionali e passare poi agli ultimi sviluppi metodologici, riassumendo prima alcuni aspetti e poi presentando in una esegesi sul testo Seconda Corinti 3. Questo versetto mi sembra particolarmente adatto perché egli ha rappresentato per lunghi secoli una, per così dire, chiave ermeneutica. È stato nel periodo dell'esegesi storico-critico questo suo ruolo è stato totalmente rifiutato. Primo, panoramica dei metodi tradizionali. Paul Ricoeur ha fatto notare che ogni metodo di lettura è legato ad un determinato gruppo. La lettura infatti presuppone una lingua e un modo di scrivere che siano comuni allo scrittore ed al lettore. Non ci si deve stupire quindi che la lettura della Bibbia sia condizionata dai processi evolutivi del gruppo in cui essa viene letta. All'interno della interpretazione biblica tradizionale si possono distinguere soprattutto due tipi di metodi. Primo, il metodo pre-critico. Come risulta dal Nuovo Testamento, gli autori biblici hanno letto gli scritti del Vecchio Testamento in modo tale da interpretare di volta in volta i messaggi dei singoli scritti come parole di Dio indirizzate a se stessi e alla loro generazione. San Paolo, per esempio, scrive: tutto quello che è stato scritto per il nostro ammaestramento. Romani 15:4. Paolo e gli altri autori neotestamentari si servivano dei metodi esegetici usuali all'epoca del giudaismo e dell'ellenismo. Questi metodi, mutuati da altri nel Nuovo Testamento, hanno assunto una impronta propria, in quanto i messaggi del Vecchio Testamento venivano interpretati non soltanto in senso allegorico, ma anche in senso tipologico, cioè leggendo gli scritti di Israele nell'ottica di una retrospettiva pasquale, quanto vi era narrato veniva interpretato come tipo di quanto era accaduto nella storia di Cristo e si stava verificando in quella della Chiesa primitiva. Questa visione tipologica aiutò i primi cristiani a considerare come propri gli scritti sacri del giudaismo. Il senso allegorico o tipologico del messaggio biblico veniva considerato come il senso spirituale e più profondo della Bibbia. Origine, riferendosi a Seconda Corinti 3:6b, lo contrappone costantemente alla semplice lettera. Sotto l'influsso di Origine e di Agostino, il quale dava anche un'altra interpretazione a questo versetto, questo metodo di esegesi biblica ebbe successivamente un enorme sviluppo. Quale criterio per l'esegesi valse quanto espresso in un popolare distico del tardo Medioevo, noi lo conosciamo, litera gesta docet credas allegoria, moralis pedagas potendas analogia, per cui il messaggio riguardante il fatto storico, la litera, costruisce il fondamento, ma l'attenzione non era rivolta tanto al fatto come tale, quanto piuttosto al significato più profondo, al sensus spiritualis o mysticus. Quest'ultimo veniva esposto in tre modi: come allegoria, cioè come riferimento ai misteri fidi riconoscibili tramite la visione generale della Bibbia, specialmente del Nuovo Testamento, come moralis e come analogia, cioè come parole di speranza in vista dello scopo della vita. Quando nella scolastica la scienza fu oggetto di maggiore attenzione, il senso letterale assume un significato più rilevante, mentre l'interpretazione spirituale venne riservata, almeno in parte, piuttosto alla edificazione personale e con frutti alquanto bizzarri. Non a torto i riformatori vi si opposero. Essi, nonostante il loro atteggiamento critico, non misero assolutamente in discussione i principi dell'esegesi tradizionale. Determinanti furono invece gli sviluppi provocati dalla esegesi storico-critica. Primo e secondo, il metodo storico-critico, gli impressionanti successi conseguiti dalle scienze naturali indussero ad estendere i metodi di queste scienze anche al campo della storia. I principi di critica, analogia e correlazione, principi quindi tipici della fisica, vennero ben presto applicati anche allo studio della Bibbia. Ma questo genere critico, storico-critico di indagine biblica presentava ai teologi una lunga serie di problemi nuovi, per esempio l'autenticità e la paternità dei testi biblici, la conciliabilità delle loro affermazioni sulla natura e sulla storia, la creazione, la storia di Israele, con i risultati delle nuove scienze, l'affinità di annunciati basi come resurrezione, figlio di Dio, con gli enunciati di altra religione, l'insostenibilità di molte interpretazioni tipologiche del Vecchio Testamento contenute nel Nuovo Testamento. Noi sappiamo che molti studi ci hanno aiutato, specialmente osservando i generi letterari, i genera letteraria, di dare una risposta a questi problemi. Meno soddisfacente però risultò la risposta alla seguente domanda. Adottando il metodo dell'indagine storico-critica, i testi sorti in passato e sottoposti alle leggi della storia, in che modo si possono proporre come parola di Dio rivolta al lettore odierno? L'esegeta che si basa sul metodo storico-critico deve ex professo prescindere dalla tradizionale dottrina dell'ispirazione e non è più in grado di portare avanti le spiegazioni allegoriche e tipologiche dei padri della Chiesa. A mio avviso, questo problema ermeneutico diventa ancora più grave se si tiene conto che la visione storico-critica scopre una molteplicità di strati antichissimi, prende in considerazione eterogeneità e divergenze di reinterpretazioni posteriori, per esempio nelle lettere pastorali, e di conseguenza rende difficile il percepire l'intera Bibbia come parola di Dio rivolta a noi. Inoltre, siccome molti esegeti che seguono gli stessi metodi pervengono spesso a dei risultati totalmente divergenti, per esempio riguardo alla tradizione e redazione di Marco 13, padre Rudolf Pech nel primo libro Naherwartung e negli ultimi giorni tutta la differenza, ed alcuni interpreti lavorano con un marcato gusto per l'ipotesi, per esempio dall'ipotesi di una fonte Q e dalle divergenze in questo supposto strato di fonte deducono immediatamente l'esistenza di diverse comunità Q. Si vanno dunque moltiplicando in questi ultimi tempi i dubbi sull'idoneità del metodo storico-critico per l'esegesi. Qua e là, soprattutto negli Stati Uniti, si sta già parlando di una bancarotta dell'esegesi storico-critica e si va accettando l'esigenza di una esegesi post-critica. Terzo, gli ultimi sviluppi, alcuni aspetti. Oggigiorno, nelle altre scienze non si può tornare indietro e non tener conto dei risultati conseguiti da Copernico, Galileo, Darwin e Freud. Altrettanto vale per l'attuale scienza biblica. Non possiamo fare a meno dei risultati dell'esegesi storico-critica. Comunque i metodi elaborati nel 700 e 800 attualmente vanno integrati con le conoscenze delle più recenti filosofie del linguaggio, della letteratura e della linguistica. Queste ultime scienze, in collegamento con i risultati delle scienze umane, psicologia, sociologia, teoria della comunicazione, offrono, a mia visione, la possibilità di, primo, riproporre alcuni principi esegetici tradizionali e ben noti, presentandoli in una terminologia nuova e più precisa. Secondo, evitare gli aspetti unilaterali dell'esegesi storico-critica e terzo, appianare la via ad una soluzione del problema ermeneutico. Per quanto le conoscenze più recenti non siano ancora sufficientemente assimilate nell'esegesi e a loro volta non di rado vengono assolutizzate in maniera sconveniente, ci non di meno, a mio avviso, un esegeta non può esimersi dal prendere atto dei seguenti sviluppi metodologici. Vi sarebbero numerati aspetti da considerare, ma ne segnalò soltanto alcuni. Primo, il vocabolo, le frasi e le piccole unità testuali generalmente non sono come tali determinate univocamente. Acquisiscono di volta in volta un preciso significato. non in base all'etimologia, come facevano i primi volumi di Kittel, bensì attraverso il contesto. Dunque, la differenza fra lingua e parola nei libri di Saussure. In campo esegetico, quindi, l'indagine sincronica, la ricerca del testo proposto, prevale su quella diacronica. Gli studi concernenti la tradizione e la redazione dei testi, su cui si concentra generalmente ogni esegesi storico-critica, vengono in tal modo relativizzati. Secondo, ogni testo alla fine serve per stabilire la comunicazione linguistica tra parlante o scrittore e uditore o lettore. Passando all'interpretazione del testo occorre quindi tenere presente questa funzione di servizio del testo. Il senso completo di un messaggio perciò non dipende soltanto dai termini del testo, ma anche dalla capacità del uditore o lettore di ricevere il messaggio, del flusso del codice, o code come si dice, dell'esperienza e dell'ambiente di chi legge. Applicando questo concetto all'esegesi, ne consegue che parola di Dio, in senso completo, non è il testo biblico preso a sé stante, ma la parola mediata per il tramite del testo è recepita dal lettore. Terzo, all'interno di questo processo comunicativo, un testo può esercitare delle funzioni totalmente differenti, può informare su un fatto, ma anche stimolare ad un'azione, oppure provocarla, funzione performativa. A seconda dello scopo che il parlante o scrittore intende conseguire, egli utilizza diversi generi di testi, per esempio narrazione e anche finzione letteraria. Per determinare i generi del testo risulta istruttiva l'analisi della struttura, eventualmente della struttura profonda del testo stesso. Questa a volte è in grado di segnalare intenzioni inconsce o represse dell'autore. Quarto, la differenziazione tra alta letteratura, rispettivamente poesia letteraria in senso classico, da un lato, e poesia popolare, rispettivamente forme semplici dall'altro, oggigiorno non la si può accettare e sostenere come si è fatto sinora. Ciò che risulta legittimo per la letteratura, anche per la finzione letteraria, vale più o meno anche per molti testi biblici. Quinto, al testo scritto si dice una certa autonomia, cioè il testo oggi può essere letto indipendentemente dal contesto originale, in una situazione totalmente diversa e da lettori diversamente disposti. A questo proposito, la storia dell'interpretazione e degli effetti che ne derivano risulta altamente istruttiva. A questo punto, con un esempio presentato su questo versetto di Seconda Corinti, si tratta di dimostrare come la considerazione di questi aspetti nell'esegesi storico-critica non soltanto comporti una migliore comprensione dei testi biblici proposti, ma favorisca la soluzione della questione ermeneutica sollecitata attraverso l'indagine storico-critico entro una linea che corrisponde completamente a quella dell'esegesi antica. Il terzo, un esempio d'esegesi presentato su Seconda Corinti 3, 6, il versetto è scritto sotto. Il terzo, uno, In nessuna esegesi scientifica si può prescindere, come fanno alcuni strutturalisti francesi, dal porsi innanzitutto la questione della critica testuale. A tale proposito, per quanto concerne il nostro versetto, c'è semplicemente da scegliere tra le lezioni apoctenei. Questo con due nui si trova nel sinaitico e nel cestabiti, ma come corretto. E con una nui si trova nel cestabiti originali e anche nel alexandrino. E questo apoctenei nel Vaticano. In base a criteri esterni, la lezione apoctenei con una nui merita la preferenza, ma non va accentata come futuro, come fa Neste nella sua edizione, bensì come presente apoctenei. Essendo questa una grafia semplificata di apoctenei con due nui, giustamente nelle edizioni più recenti, per esempio The Greek New Testament di Alan, la lezione apoctenei viene presentata come originale. Pur non sussistendo semanticamente alcuna differenza tra apocteino e la più recente forma eolica apocteno, questa grafia stimola perlomeno a prestare particolare attenzione a questo vocabolo. Terzo 2. Come già sottolineato in precedenza, il significato di un messaggio è determinato sostanzialmente dal contesto. Per questo vi si deve prestare un'attenzione particolare. Il passo 2 Corinti 3:6b si trova nella seconda lettera alla comunità di Corinti. Egli si interessa dei conflitti suscitati dalla comparsa dei nemici. Come dimostrano il contesto più stretto del nostro versetto e soprattutto nel terzo capitolo, l'autorità dell'Apostolo vi aveva un ruolo determinante. All'inizio del terzo capitolo, Paolo adduce la comunità stessa come prova della sua autorità. Essa è, per così dire, la sua lettera di raccomandazione che egli aveva potuto scrivere con lo Spirito del Dio vivente, non in tavole di pietra, ma nelle tavole dei cuori di carne. Versetto 3. Con questa allusione alla consegna delle tavole della legge su Sinai e alla promessa di una nuova alleanza in cui la legge viene scritta nel cuore, Geremia 31 e anche Ezechiele 11, Paolo mette a confronto il proprio ministero con quello di Mosè. Questa contrapposizione Paolo la esprime in 3:6a quando si definisce ministro di una nuova alleanza, non della lettera ma dello spirito. È qui che Paolo aggiunge il testo che stiamo esaminando, perché la lettera uccide mentre lo spirito dà vita. Nei versi seguenti egli amplia ulteriormente la contrapposizione con una formulazione basata sull'antitesi ministero della morte, ministero dello spirito, ministero della condanna, ministero della giustizia. All'interno di questo passo, il verso 6b presenta una certa compattezza che dà l'occasione di parlare di una glossa. Tramite il GAR, l'antitesi del verso 6b è strettamente legata alla precedente, non della lettera, ma dello spirito. Per l'interpretazione del verso 6b è inoltre istruttivo di punta linguistica il fatto che i suoi termini all'interno del terzo capitolo compaiono ripetitamente, ricorrenza semantica o si dice anche isotopia, ed acquisiscono così un senso preciso. 3:3, trattandosi di un testo in lingua straniera, occorre prima di ogni altra indagine accertare il significato di ogni singolo vocabolo. Il nostro verso è collegato al emisticchio precedente per mezzo di un gar. Il gar può ovviamente avere un significato causale, esplicativo, deduttivo o continuativo. Qui si ha a che fare col significato esplicativo. Esso infatti, in stretta connessione col il de seguente, evidenzia una spiegazione antitetica alla precedente antitesi. Nel momento in cui questa spiegazione stabilisce ad un tempo la superiorità e la necessità del Nuovo Testamento, costruisce anche una motivazione per la particolare posizione che a Paolo compete in quanto ministro della Nuova Alleanza. Togramma, oltre che lettera, scritto, può significare trattati vari, rispettivamente il sapere mutuato loro tramite. Qui gramma è ulteriormente determinato dal verbo apoktenei e dalla contrapposizione apneuma. In quanto soggetto di uccidere, assume il significato di uno che agisce, persino di una potenza, come spesso nelle lettere di San Paolo i termini amartia, thanatos assumono il significato di potenza. Il rapporto con la precedente antitesi u grammatos alla pneumatos esige che qui si interpreti l'articolo to non in senso generico, bensì anaforico, cioè gramma sta qui a caratterizzare il Vecchio Testamento come pneuma caratterizza la Nuova Alleanza. La stessa contrapposizione compare ancora in Romani 2, 29 e 76, en cae noteti pneumatos cae u palaioteti grammatos. Tanto la che qua gramma ha il significato di nomos, legge, toro, tora del Vecchio Testamento. Scegliendo il vocabolo gramma, Paolo intende evidenziare un determinato punto di vista del nomos, che cioè si tratta di un nomos scritto e che i suoi nemici si aggrappavano appunto al messaggio fissato in scritto. Della Tora messa in scritto, Paolo afferma che essa apoktenei, occide, il che, in base al contesto della nostra lettera e degli altri scritti paolini, va spiegato in due modi. Primo, essa condanna a morte gli appartenenti al Vecchio Testamento, in quanto diviene un atto di accuso, versetto 9, catacrisios, o anche Romani 8:2 e Galati 3:10. Secondo, essa, alla maniera di un catalizzatore, manifesta i peccati nascosti nell'uomo, provocandone la morte, Romani 7:7 e anche 1 Corinti 15:56. La lettera uccide è quindi una asserzione in prospettiva cristiana sulla legge giudaica e che è buona in quanto tale, ma che effettivamente provoca la morte a causa della debolezza umana. Questa interpretazione viene confermata dal seguente versetto to pneuma zu opa e. To pneuma, qui come del resto nel presente capitolo, specialmente al versetto 3 e 18, si intende il soffio vivificante di Dio che era stato promesso per l'avvenire nel Vecchio Testamento e percepito come tale nella Chiesa primitiva. Pneuma, quindi, non va confuso, come fanno i tedeschi spesso, con nous. e nel Nuovo Testamento non ha mai il significato di senso, come lo esplica per esempio Atanasio. Lui in suo commentario dice pneuma quista come nous. Il suddetto significato di pneuma è richiesto anche dal collegamento con zoopoei. Nella Septuaginta e nel Nuovo Testamento questo verbo indica l'attività riservata unicamente a Dio, quella cioè di vivificare. Esso richiama alla memoria del lettore biblico il frequente collegamento tra pneuma e zoe, e nel Nuovo Testamento viene spesso direttamente unito a pneuma, per esempio 1 Corinti 15:45 pneuma zoopoiun, o anche Romani 8:11 e Giovanni 6:63 to pneuma est in to zoopoiun. Perciò, in quanto antitesi di la lettera occide, lo spirito da vita indica che a pneuma compete la potenza opposta a gramma. Questo viene espresso anche per mezzo delle antitesi immediatamente successive diaconia tanatu, rispettivamente diacrisios e diaconia pneumatos, rispettivamente dikai osynes. Il versetto, perché la lettera occide mentre lo spirito dà vita, e perciò all'interno del contesto una affermazione ben determinata. In quanto spiegazione della contrapposizione del versetto 6a, non della lettera ma dello spirito che caratterizza il Nuovo Testamento, si afferma che la Torah, in quanto legge del Vecchio Testamento fissato in scritto, conduce alla morte, mentre lo spirito del Nuovo Testamento salva dalla morte. In altre parole, ciò che la Torah non è in grado di realizzare, lo realizza invece lo spirito vivificante di Dio per la mediazione di Gesù Cristo. A questo punto si pone il problema se questo messaggio, legato alla storia della salvezza, in merito all'effetto letale della Torah, presa alla lettera e alla forza vivificante dello spirito conferito nel Nuovo Testamento, sia l'unica interpretazione possibile ed esclusa quindi ogni altra interpretazione. Per poter dare una risposta a tale questione è utile rivolgere la nostra attenzione alla forma e al genere textsorte del nostro testo. 3-4. Sin dai tempi più antichi, la suddivisione di un testo costituisce un mezzo collaudato per comprenderlo meglio. In questi ultimi anni, nell'esegesi, come prima del resto nelle scienze letterarie, si attribuisce un gran peso alla descrizione della forma, aspetto esteriore, e alla struttura caratterizzante il testo. Infatti, il messaggio di un testo dipende essenzialmente dalla sua forma e soprattutto nelle narrazioni viene di volta in volta compartecipato dalla struttura. Il passo 2 Corinti 3:6b consta di due proposizioni principali completamente parallele. Toga pneuma apoktene, toga gramma apoktene, toga pneuma zoopoei. Ciascuna con un soggetto determinato, toga gramma, toga pneuma. Un verbo finito al presente e una congiunzione gal rispettivamente de, che trasforma il parallelismo in un'antitesi. È sorprendente la mancanza del complemento oggetto. Tramite l'assenza dell'oggetto e la forma verbale al presente, la breve proposizione acquisisce la sua struttura propria. Qui non si narra o riferisce, I due soggetti vengono caratterizzati in maniera completamente generica. Le due frasi presentano lo stesso numero di sillabe e lo stesso ritmo, lo stesso suono dell'esistenza, ma tene poi ei, o moio teloiton, fanno perfino pensare a tracce di un'espressione artistica. Proprio per questa forma artistica, il testo rimane facilmente impreso e consegue una forte impronta originale. A mio avviso, potrebbe essere questo uno dei motivi per cui questo passo è stato spesso citato ed interpretato prescindendo dal contesto. 3.5. Nell'esegesi storico-critica, la determinazione del genere letterario, spesso chiamato semplicemente forma, serviva a chiarire l'ambiente vitale sitz im Leben e la storia della forma di un testo per trarne delle deduzioni utili all'interpretazione. Se in base alla linguistica più recente si subordina la diacronia alla sincronia, nel momento in cui si stabilisce il genere letterario del testo, non è la questione dell'origine che sta in primo piano, ma quella della struttura e coerenza interna e delle conseguenze immediate per l'interpretazione. Per determinare il genere letterario del testo, i linguistici dicono spesso Textsorte, è necessario confrontare il testo in esame con altri che presentano una forma, rispettivamente una struttura identica o simile, che si avvicinano o anche per il loro contenuto. Nel Nuovo Testamento vi sono parecchi testi chiaramente affini al nostro versetto. Particolarmente istruttivi sono soprattutto i seguenti che ho scritti in su. Primo, 2 Corinti 4, 18b, «Taca plepomena proskaira, tade me plepomena aionia». Si tratta, come in 2 Corinti 3,6, di due frasi completamente parallele che risultano coordinate in modo antitetico sia dal punto di vista formale, tramite le particelle gar e de, che dal punto di vista contenutistico, tramite i termini blepomena, me blepomena, come proskaira, aionia, senza essere comunque formulate in proposizioni principali. Come nel nostro versetto, questa antitesi si riferisce direttamente a quella precedente mesco puntum femonta blepomena alata me blepomena. Il messaggio di per sé generico sul valore permanente di ciò che non si vede, a differenza di ciò che si vede, assume, grazie al contesto, una certa limitazione, la tribolazione visibile, la gloria invisibile. All'interno dell'intero periodo di 2 Corinti 4, 6, 18, il verso 18b serve a spiegare e motivare quanto precedentemente detto e precisamente le indicazioni concrete vengono illuminate per mezzo di una affermazione più generale. Romani 10:10, cardia garbi stoietai esti caiosinai, stomati de omologeite esoterian. Questa doppia frase, formulata come parallelismo antitetico soltanto in modo formale, mediante il gar e il de, per il contenuto si tratta piuttosto di un parallelismo sintetico, ha in comune col nostro versetto il fatto di essere costituito da due piccole proposizioni principali e di riferirsi all'antitesi precedente omologeses stomati pistoises cardia. Rispetto al verso 9, Il verso 10 ha chiaramente una funzione esplicativa. Tramite un qualcosa di universalmente noto e riconosciuto, fede, cuore e confessione della bocca quali portatori di giustificazione e di salvezza, viene spiegata un'affermazione meno generica e meno nota che l'adesione a Gesù in quanto Kyrios e la fede nella sua resurrezione conducono alla salvezza. Giovanni 6, 63 è: «To pneuma estin to zu epaun, he sarx uc ophelei uten». A dire il vero, qui sono assenti i segnali gar e de, e manca pure ogni riferimento ad una precedente antitesi. Il parallelismo dei termini senza alcuna congiunzione e il loro significato contrario lo caratterizzano però in modo inequivocabile come antitesi. Collocata nel suo contesto, la doppia frase denota un'autonomia propria per il suo messaggio risolto molto generico. Il verso 63a intende senza dubbio offrire una spiegazione che serva a dare una risposta alle domande proposte ai versi 60-62. Le domande perciò vanno considerate entro un orizzonte più vasto e generale. Il confronto che abbiamo stabilito fra 2 Corinti 3:6b e i passi affini, cui vanno aggiunti Romani 2:13 e 6:23 e anche Galati 5:17, dimostra quanto segue. Il nostro testo presenta nella sua struttura e funzione molti lati comuni ad altri testi. Questi si possono annoverare nel genere di testi che presentano una spiegazione e giustificazione a modo di glossa. Infatti, ciò che li caratterizza è che essi spiegano e giustificano un precedente messaggio servandosi in genere delle stesse parole in una formulazione rapida, incisiva ed autentica e precisamente riportando una verità fondamentale e generale come in una sentenza. Nostro versetto spiega così tramite una affermazione generale su gramma e pneuma la caratterizzazione precedente indicata del Nuovo Testamento, non del gramma, bensì del pneuma. Se 2 Corinti 3:6b per il suo genere va annoverato tra le suddette spiegazioni e giustificazioni a modo di glossa, il significato dell'antitesi in quanto tale va quindi più in là di quello inerente al contesto immediato. Con che diritto e in che modo questo significato esteso dall'antitesi di nostro versetto, indipendentemente dal contesto immediato, possa venire dichiarato come messaggio biblico, lo può spiegare l'analisi diacronica della redazione e della tradizione del testo. 3:6. Si sa ormai da decenni che Paolo, nelle sue lettere, ha riprodotto tradizioni precedenti, apportandovi in fase redazionale delle variazioni parziali, per esempio 1 Corinti 11:23-26 e anche il versetto sulla resurrezione, 1 Corinti 15:3-7 e anche l'inno nella lettera ai Filippesi, 2:6-10. Se nostro versetto per il suo genere è una spiegazione a modo di glossa, nasce allora la questione se non si tratti per caso di una citazione. A che si oppongono i seguenti argomenti? 1. La formulazione presenta una dizione tipica di Paolo, La contrapposizione gramma-pneuma, l'affermazione riguardo all'effetto letale della legge è una prerogativa tutta paulina. Secondo, la scelta dei vocabili nel nostro versetto è inconfondibile vincolata al contesto. La presente stesura del testo risale perlomeno a Paolo stesso, rispettivamente al suo scrivano. Ciò non esclude però che Paolo abbia rispreso delle formulazioni tradizionali. Si è più volte riflettuto sulla possibilità che almeno per quanto concerne il contenuto, la versione perché la lettera occide si riallacci ad un modo di parlare allora diffuso, per esempio Kesemann e anche Padre Prüm. Con una certa cautela ci si può chiedere se la grafia apoctenei non vi faccia riferimenti. Fino ad oggi, però, non vi sono in merito documenti profanti. In base a documenti biblici, invece, si può supporre che Paolo abbia ripreso il contenuto di argomentazioni preesistenti, quali insufficienza del Vecchio Testamento e l'insufficienza delle capacità umane. Paolo poteva parimenti presentare l'azione vivificante dello Spirito come una verità nota ai Corinti, il che era piuttosto possibile, tanto più che Paolo vi allude già in 1 Corinti 15, 45, pneumo zu opaun, e lo esprime rispettivamente ampia con altre parole in Romani 8, 1 a 11. Ed infine la contrapposizione antitetica di morte, rispettivamente uccidere, e spirito vivificante, la si ritrova già nella più antica predicazione della Chiesa primiva. Tale predicazione era caratterizzata dalla fede nel Signore risorto da morte e dalla esperienza dello Spirito che animava appunto la Chiesa primitiva. Ciò che Paolo scrive in Galati 3 sull'insufficienza della Tora, almeno per quanto riguarda la tematica, può valere come concretizzazione e specificazione della predicazione della Chiesa primitiva, che cioè noi non raggiungiamo la salvezza con forze proprie, ma attraverso lo Spirito Gesù Cristo. Con questo sfondo della tradizione storica, anche la stesura dell'antitesi in nostro versetto da parte di Paolo risulta ancorata in un messaggio generale della predicazione della Chiesa primitiva. Partendo dall'ottica della nuova psicologia e sociologia, emergono in questo contesto alcune domande. Quali esperienze personali, conscie o perduranti a livello inconscio, hanno indotto l'Apostolo a formulare l'affermazione tocca gramma apoctene tode pneuma zu opoei, un'affermazione scandalizzante per i giudei e liberatrice per i cristiani. Forse l'imitazione della libertà personale tramite la Tora nella gioventù di Paolo, quindi si può dire aggressioni accumulate, repressione del senso di colpa, esperienza di liberazione da colpa dopo la conversione, confermo o meno del suo operato in Corinto. Quali fattori sociali l'hanno condizionato? Posizione sociologica di un alunno di rabbini proveniente dalla diaspora, il suo confronto con i ceti più poveri di Gerusalemme e con alcuni cristiani presumibilmente più agiati a Corinti. Tenuto conto dal materiale autentico, occorre ad ogni modo procedere con estrema cautela nel dare una risposta a questa domanda. L'esegesi non deve ricadere negli errori di una esegesi psicologizzante del secolo scorso. con tutto questo risulta strettamente connessa la stessa linea delle esegesi tradizionale la questione che nella letteratura linguistica passa sotto il nome di pragmatica. Essa riguarda la composizione del testo in considerazione dell'effetto che l'autore intende produrre sui destinatori. Per i testi narrativi si parla addirittura di strategia. A tale scopo è indispensabile esaminare la situazione dei lettori. Infatti, la formulazione di un messaggio, la scelta dell'argomento, il modo di enuclearlo, la dizione retorica è condizionata in maniera essenziale dal destinatario e dall'intenzione di influenzarlo da parte del parlante. Per l'interpretazione di nostro versetto è necessario a questo proposito tenere presente la posizione polemica, chiaramente riconoscibile nel contesto, assunta da Paolo contro gli attacchi rivolti al suo ministero apostolico. Ne risulta la scelta di un'antitesi acuta e dimenticabile. La formulazione ad hoc esige che si vada alla parzialità con cui il testo è stato steso e che lo si interpreti attenendosi alla verità generale che le sta alla base. 3.7. In campo esegetico, la considerazione della fortuna della Wirkungsgeschichte, si dice, ossia della recessione di rezezione ed efficacia di un testo attraverso i secoli, è nota ormai da lunga data. Oggigiorno viene promosso e ha ragione anche da esegeti cattolici, per esempio Peter Stuhlmacher, lui esige in molto forte. Dal punto di vista della linguistica, la storia della fortuna della Wirkungsgeschichte permette di individuare quale dinamica sia insita in un messaggio e quale interpretazione possa suscitare la indeterminanza di un messaggio in situazioni concrete. Essa indica inoltre in che modo la relativa recessione di un testo sia condizionato da fattori esterni al testo. Al nostro scopo basta un breve esame di due tipi di recezione a proposito di Seconda Corinti 3.6b. Primo, all'epoca dei padri della Chiesa il nostro testo veniva per lo più interpretato sulla scorta del contesto paolino, per esempio in Tertulliano, Cesostomo e anche preso Agostino. Ad ogni modo però, soprattutto in Agostino, con litera non si intendeva più l'intera Torah, ma soltanto il Decalogo, il quale per la carenza di grazia esercitava un'azione letale. Spiritus si indicava in Agostino la grazia concessa dallo Spirito di Dio per adempiere le esigenze della legge. L'attuale trasposizione dell'antitesi, così formulisce Ebeling in suo articolo Geist und Buchstaben im Reallexikon der Antike, RAC in Christentum, rispetto al contesto originale è sostanzialmente connesso con le mutate situazioni storiche della Chiesa. Più nessun contrasto diretto col giudaismo, ammissione del decalogo nell'insegnamento catechistico della Chiesa. L'altra tipo origine, senza considerare direttamente il contesto, interpreteva nostro versetto come principio ermeneutico. Gramma lo scriveva come aiste te ec dorte, sensus literalis, e pneuma come no ente ectope, sensus spiritualis. Non stanno più contrapposti fra di loro legge del Vecchio Testamento e pneuma del Nuovo Testamento, bensì scrittura, parola, e senso. Pneuma viene interpretato nell'accezione di nous. Questa interpretazione, che influenzerà l'exegesi successivo, Agostino la riconosce valida accanto a quella menzionata di sopra, era per l'ultimo condizionata dalla provenienza storico-spirituale di origine, platonismo, Filone, e dal compito di favorire un'interpretazione degli scritti biblici di Israele che si adeguasse alle esigenze spirituali del suo tempo. Queste due interpretazioni vennero seguite ininterrottamente fino all'inizio della nuova era. Lutero diede una propria impronta all'interpretazione agostina, un'impronta che si accosta alla sua successiva distinzione tra legge, evangelio, gesetz und evangelium. Qui non è possibile entrare in dettaglio. Con l'affermarsi del metodo storico critico, la spiegazione di origine viene rifiutata in quanto ritenuto completamente non paolino. Ed interessante, soltanto in scritti filosofici, nostro versetto viene spesso citato ancora in questo senso di origine. Invece, quella comune a Crisostomo e anche Agostino viene ripresa e portata avanti come l'unica aderente al testo. Comunque, sono pochissimi gli autori a rendersi conto che anche questa interpretazione in fondo diverge dal messaggio paolino. 3.8. Il significato biblico-teologico è proprio la panoramica storica sulla fortuna, la recezione ed efficacia del nostro testo a porre il teologo di fronte alle seguenti questioni. Come è possibile oggi interpretare ed accogliere il nostro versetto come parola di Dio rivolta a noi? È ciò possibile unicamente nel senso che l'indagine storico-critica presente come direttamente inteso da Paolo, oppure anche in un senso più ampio e traslato. Quest'ultimo è quello seguito durante il corso della storia ecclesiastica, non solo da Origine, ma anche da Crisostomo, Agostino, Lutero, e lo seguono tuttora autori moderni come Käsemann e Bultmann. Infatti, tutti costoro concepiscono la lettera occide non soltanto come un messaggio inerente alla storia della salvezza, sull'effetto letale della Torah, ma anche come un giudizio sul comportamento di fronte agli scritti del Nuovo Testamento intesi come lettera. E cioè, essi interpretano il testo in un senso translato. 3.8.1, giustificazione dell'interpretazione in senso traslato, che l'interpretazione in senso traslato di testi biblici sia fondamentalmente possibile, oggi a mio avviso lo si può spiegare meglio che nel passato, proprio tenendo conto delle considerazioni metodologiche precedentemente menzionate su basando sui moderni studi concernenti la filosofia del linguaggio e la linguistica. Nostro versetto, in quanto testo scritto, va oltre i limiti dei primi destinari ed affidato anche ai lettori odierni. Questi ultimi non possono fare altro che recepire e determinare la parola di Paolo entro l'abito del loro codice. Essa può essere loro utile come medium del messaggio divino soltanto nel modo in cui esso la recepiscono oggi. Ma affinché questa recezione odierna e la relativa interpretazione in un senso traslato risulti legittima e non arbitraria, occorre adempiere concretamente anche due seguenti condizioni. Prima, il testo deve risultare adatto ad una interpretazione in senso traslato, cioè è soprattutto possibile, come nel nostro caso, se l'esposizione o il messaggio è in sé omogeneo, gli elementi concordano fra di loro e in conseguenza di una certa accezione tipica risulta trasferibile ad altre persone e situazioni. Seconda, la ricezione e la interpretazione, la relettura, relettura, devono avvenire entro il contesto dell'intera rivelazione, rispettivamente Bibbia, e da tale contesto conseguono di volta in volta il loro significato completo. In altri termini, la verità dell'interpretazione non dipende soltanto dal singolo testo più o meno polisemantico, ma anche dall'intero processo verbale, parlante, uditore, testo. In questo modo il testo, a seconda del grado di formazione del lettore e dello scopo della lettura, argomentazione scientifica, predicazione o edificazione personale, assume un'efficacia più o meno determinante. Vuol dire che anche una interpretazione nel senso traslato accade sempre in un contesto, nell'insieme della tutta struttura, o si può dire, come per esempio Urs von Balthasar sa, im Blick auf das Ganze. E leggendo il libro sul problema ermeneutico di Elmar Corre, das Problem der Hermeneutik, la settimana scorsa, io l'ho ripetuta, mi veniva in mente che quello che dice Corre sul das Ganze è molto vicino a quello che dice la Sacra Scrittura col Pneuma. Questa prima di Pentecoste si può pensare poi su questo, das Ganze, su Pneuma. Adesso le interpretazioni legittime, numero 382, ho preso, riassumendo e tenendo particolarmente conto dei punti di vista e delle condizioni ora nominati, oggi si può interpretare il nostro versetto in senso biblico, teologico, nei tre modi seguenti. Primo, l'interpretazione corrispondente al contesto immediato. L'originario messaggio salvifico di questo testo ci può toccare ancora oggi in modo impressionante, anche se ci manca la polemica angustiante di Paolo col giudaismo. Il testo dice ad ogni cristiano che la Torah di Israele, dal punto di vista neotestamentario, non può di per sé stessa servire come via di salvezza. Anzi, essa in ultima analisi conduce alla morte. Ciò comporta una conseguenza per l'interpretazione del Vecchio Testamento. Una esegesi puramente storico-critica del Vecchio Testamento che prescinda dal Nuovo Testamento, dal punto di vista teologico cristiano, fa rifiutata. Seconda interpretazione, traslata che tiene conto del contesto immediato, visto che Paolo, il nostro versetto, nomina la Torah non con il conseguito nomos, ma gramma, lettera, e lui stesso ad indicare perché la Torah abbia un'efficacia letale e non possa donare alcuna vita. Essa era considerata come lettera e i suoi nemici facevano appello alla lettera. Questo può accadere anche nell'accostamento agli scritti del Nuovo Testamento. Per chi legge unicamente come lettera e si aggrappa al testo soltanto, senza meditarvi in unione col Signore dello Spirito, gli scritti del Nuovo Testamento saranno occasione di Kauhema, dice Bultmann, o di Aberglauben, dice Käsemann, di combattimento superbo, di confidenza in se stesso e quindi di morte. Käsemann e Bultmann, come detto, rilevano nel nostro testo una diffida contro la superstizione. Vi è inoltre accennato il pericolo di mia vista di concepire i testi biblici, come viene oggi spesso presi i catechisti, come semplici direttive etiche. Il giusto comportamento nei confronti degli scritti biblici consiste nell'accogliere loro tramite la parola del Signore dello Spirito e tramite il suo Spirito nel lasciarsi strappare alla potenza della morte. Terzo, l'interpretazione traslata che prescinde dal contesto ristretto. Chi ha l'iniziazione al linguaggio biblico, soprattutto con il significato di pneuma, che non è lo stesso come nous, oggi non è in grado di rilevare in 2 Corinti 13b nessuna asserzione sulla differenza fra sensus literalis o spiritualis, sensus spiritualis, come l'ha fatto origine. Ciò non di meno è possibile di recepire e interpretare nostro versetto come assioma ermeneutico, leggendolo all'interno del contesto dell'interna Bibbia e come principio generale e in un certo senso autonomo sia per la sua forma che per la sua tradizione storica. La lettera occide come la Torah del Vecchio Testamento. Ogni testo biblico, se letto isolato dal complesso della rivelazione, non porta alla vita, anzi conduce alla morte. Infatti, considerato semplicemente come gramma, senza riferimento al processo verbale della intera rivelazione, risulta spesso incomprensibile, non di rado rende cieco e distoglie l'attenzione dalla comprensione globale, da cui infine dei conti ogni singola parte acquista il suo senso completo come parola di Dio. Ciò vale, a mio avviso, anche per una assolutizzazione del metodo storico critico. Ed un esempio tragico per me è l'ultima parte del commento sulla lettera ai Romani del esegeta cattolico Otto Kuhs, perché questa terza parte finisce con una resignazione. Non c'è una teologia di San Paolo, non c'è una parola di Dio nella Sacra Scrittura, sono soltanto di vari aspetti e vari strati. E si trova questo anche nelle scritte dei protestanti negli Stati Uniti. Lo Spirito dà vita. Come unicamente lo Spirito mediato nel Nuovo Testamento è in grado di salvare dalla morte, così nell'ottica dell'intera Bibbia soltanto lo Spirito di Dio può rendere libero il cuore dell'uomo affinché non rimanga attaccato agli aspetti superficiali del testo e dei suoi messaggi. Con la forza dello Spirito la mente umana riesce a percepire la dimensione profonda del mondo e dei messaggi biblici. La tradizionale esigenza di un'interpretazione spirituale della Bibbia e della percezione del senso spirituale, non nell'accessione di un senso pleno dello scritto, ma del senso mediato dal testo e recepito dal lettore, oggi può, a mio avviso, rifarsi giustamente alle parole toga pneuma, toga gramma apoteni, toga pneuma zu opoein. Questo aiuto dello Spirito nell'ottica della Chiesa non consiste affatto soltanto in una illuminazione interna, Via Trient, mi pare sia parlato molto nel concilio su questa illuminazione, ma ha piuttosto trovato forme concrete nella predicazione della Chiesa, la collezione del canon della Bibbia, i concili, i padri della Chiesa e nella vita dei santi. Per concludere, i risultati degli studi della più recente filosofia del linguaggio, della linguistica e della scienza della letteratura costringono noi esegeti da una parte a riconsiderare i limiti dell'esegesi storico-critica, che in sé è buona. Dall'altra parte ci danno la possibilità di risolvere il problema ermeneutico in una maniera più soddisfacente e di valutare meglio l'atteggiamento degli scrittori sacri e dei padri della Chiesa verso i sacri testi, sia del Vecchio Testamento sia del Nuovo. Poiché, primo, il testo sacro ha come tale una funzione intermediaria nel discorso di Dio agli uomini, cioè il senso del testo e della parola di Dio nel suo pieno significato non viene costruito soltanto dalla parola scritta, ma anche da come essa è recepita dal lettore. Questa ricezione rende possibile che la parola di Dio venga recepita e capita. Secondo, la Bibbia ha come testo scritto un significato che trascende la situazione originale, cioè essa è destinata ad essere medium del discorso di Dio alle generazioni successive e può così essere capito in un senso più ampio in corrispondenza alle mutate situazioni. L'esegesi su Togagramma Apocteinito de Pneuma Zopoei che abbiamo presentato ci dimostra il valore degli ultimi sviluppi di metodologia neotestamentaria. Essa per di più ci mostra che il senso spirituale di un testo biblico non è un senso nascosto, quasi un senso splenio, ma il senso che il lettore accoglie quando legge ed accoglie un testo biblico nello Spirito Santo, cioè nel contesto dell'annuncio ecclesiale e della vita della Chiesa. Grazie. Ecco, allora io direi che anche in considerazione dei tre quarti d'ora che ci rimangono fare subito un giro di domande all'oratore, è vero, e credo che appunto il commento del professor Kremer a questo mezzo versetto della seconda Corinti abbia suscitato notevoli curiosità, notevoli questioni, notevoli possibilità di domanda. Ecco, ad esempio, io vorrei porne una per primo e poi passo la parola ai presenti. Quanto il professor Kremer nel proporre una lezione con la semplice mi, è vero, abbia tenuto conto della del criterio della lezione difficile. Ecco. Poi ovviamente chi volesse intervenire è libero di farlo. Ecco, questa... Non la lezione di Ficilio, perché nel testo Bitti è scritto col un, ma è così che nel pinciatinismo si è spesso semplificato. Invece, così che questo... Cioè, allora è una questione di usus scribendi. Allora. Usus scribendi, ecco. Sì, ma è falso come nel Nest quando si scrive come futuro, occidere. Ma è questo nel Nestre è uno sbaglio, perché io a Vienna noi abbiamo una riproduzione anche del Chesterbeatty e anche studiato, perché nel Chesterbeatty si vede che in alcuni manoscritti si è corretto, si è da uno fatto una seconda, ma è probabilmente la vera iscrizione e con doppio Lycum anche nella nuova edizione del Nestle che è già nel Greek New Testament scritta. E soltanto la questione per me era interessante, io mi ho sempre domandata, è questo forse un segno che qui noi abbiamo un citato? Perché nel Nuovo Testamento sono alcuni, soltanto due, le altre parti dove sta apocteno invece di apocteino, ma non ho trovato nessuna, come si dice, conferma per questo. Sì. Ecco, allora, il professor Rinaldi allora chiede la parola. Ecco, prego. Non posso purtroppo parlare di dramma, bisogna avere sott'occhio i mezzi di controllo dei corrispondenti semitici di questa parola. Certo però è da escludere che possano essere per esempio i comandamenti si devono ancora osservare. Stupisce che certo dramma sia stato usato al posto di nomos o un'altra parola che volesse dire la Torah. Noi possiamo anche ampliare ancora e dire la religione giudaica con le sue pratiche, con la sua fede, con i suoi riti e anche con quel qualche cosa di aspettativa, di attesa che quella religione ha e che ormai è diventata inutile. Per il caso di Bleuma, penso che si possa ancora ulteriormente, la sua analisi è stata finissima, ma penso che si possa ancora raggiungere una particolare finezza. Nella lettera ai Filippesi, l'ultimo versetto, dopo i saluti, dice, che fa, ora, qui è stato ripreso dalla Chiesa, qui c'è una tradizione ecclesiastica, è tuo spirito tuo. Perché quando lingua e cultura è tuo spirito tuo, la pace. Ora io direi che bisognerebbe osservare intanto questo fatto, che Nerma è destinatario di una charis. Non ricordo in questo momento, bisogna avere in mente, ma credo che nella voce pneuma del titel, non so più se in principio, ma in qualche posto l'ho ben detto, fa un paragone l'autore della voce, non so chi sia, non ricordo più, fa un paragone con una espressione delle religioni iraniche, della spiritualità iranica, nelle quali appunto Pnefa, sì va bene, Ruach, ci sono cose qua, ma indica qualche cosa di più. Allora, mettiamo insieme questi elementi. Qui Pnefa è il termine a cui deve essere consegnato una charis. Nella tradizione ecclesiastica, non sto dicendo ecclesiastica dei preti, voglio dire, ma proprio rituale, proprio ben dentro l'azione rituale. La grazia è diventa un dono che tiene il diritto allo spirito del sacerdote in risposta all'augurio che egli ha fatto. E poi appunto bisogna aggiungere questi significati che sono un po' vagamente anche iniziatici, che viene a bere. Cose a cui San Paolo era tutt'altro che insensibile, soprattutto poi in queste lettere filippesi e questi via, tutt'altro che insensibile. La spiritualità la spiritualità ellenistica aveva di questi fatti che San Paolo ha assimilato. Non so, la fauna su Cristo è stata, no? È stata paragonata alla fauna nell'albero delle religioni, eccetera. Su questo non c'è da dire, si sa questo. Allora, io mi domando, quando dice che lo spirito vivifica, forse che Paolo implica lì, sì, lo spirito che deve osservare colui che ha una legge, che ha una norma di vita, ma un dono soprannaturale, è un pneuma, è un'anima che non è quella comune, è un pneuma che è quello che non si dice nella teologia, almeno dicevo una volta che quando studiavo lì, vai, vorrei che fare. Questo mi credo che vale ancora. Lo spirito è elevato a un stato soprannaturale, che è ancora della natura presente. Ma allora se andiamo in quel campo lì, allora anche il versetto, anche il dramma, chissà che altro significato può avere. Io ho già detto che per dramma sono solo in grado di vedere dei dubbi. Ma per pneuma penserei che si possa pensare già a qualcosa di tipicamente cristiano, cioè la religione giudaica non dice Torah, tutto il resto, i sacrifici, le pratiche, c'erano poi molte tradizioni, Gesù ha condannato le vostre tradizioni, non erano ceri, guardavano la Torah, ma riguardavano anche altre cose. Ecco, erano tutto l'insieme di questi che avevano lo spirito buono. Si potrebbe citare anche il sentimento dei cumranici, quegli ammirabili uomini che erano lì, e parlano di ruah, anch'essi, di spirito, di qualche cosa che non è già più la pura lettera, significato letterale, lei dice non senso, va bene, io accetto, non vuol dirsi. Ma allora, lo stato soprannaturale in cui l'uomo, lo stato diverso in cui l'uomo deve essere, lì c'è la santezza. Mi scuso se sono stato poco chiaro e troppo lungo, ma non ho neanche i documenti utili. Forse c'è qualcuno che deve prendere la parola. Prego. Più di mente di me, che era al secondo forse. No, grazie molto per la domanda, ma qui si vede un pochettino, se io posso dire, la differenza del metodo storico-critico, se posso dire, e del metodo linguistica. Perché lei ha ragione, la parola gramma si può studiare anche nel senso giudaico e si deve anche, e specialmente anche il senso pneuma, ha nel Nuovo Testamento, anche nel Vecchio Testamento, spesso un senso antropologico, come alla fine della lettera ai Filippesi. Ma la linguistica, e questo voleva dimostrare, ci insegna che il significato di un vocabolo, di un termine, viene determinato per il contesto. E nel nostro capitolo 3 della lettera seconda ai Corinti, già nel versetto 3, la lingua di pneuma teuzontos, il pneuma, lo spirito di Dio che dà vita. E poi occorre anche alla fine, e meste pantes anache calomino prosupo tendoxen kyrie cadoplezomno catapa apocyri metamorfumeta catapa apocyrio pneumatos. E dunque la significazione di pneuma in un nostro testo viene determinato per l'antitesi non occide ma vivifica. E poi preso Paolo, e per me non è lo spirito antropologico ma è lo spirito che la Chiesa nel nuovo, nella prima Chiesa ha recepito, e l'esperienza della Chiesa primitiva è che viene espressa in questa parola. Però vedo che intanto anche lei dice, viene a dire in sostanza, che Pneuma, adesso lasciamo il caso dell'altra parola che non abbiamo i mezzi per controllare in questo momento. Pneuma, qui potrebbe benissimo, non lo afferma, ma potrebbe benissimo avere uno, un significato che non è tra quelli, non so, elencati da Lindenstott o da questi trattatisti, dai lessicografi, che sono comprendisti, però qualche cosa tra cose sfuggiva, come vedete in questo caso. E allora, non dico che non sarebbe senso letterario, perché se il termine ha già pensato questo senso, siamo senso letterale, storico, politico. Se è questo, dico se, tutto questo è serio. Ma non voglio troppo prolungarmi. Io non sono un noi testamentario, io sono sempre fatto di ebraico, insomma, così. Quindi in questo sono le orecchiate, ma forse tra i presenti c'è qualcuno che potrebbe poi controllare un po' se questa idea è giusta o è male. Grazie. Allora una domanda del professor Ecker, se ci sono altri che ecco, vogliono, sì, poi professor Rizzi, altri? Prego. Sì, la mia domanda è questa, se ho capito bene, lei ha detto, no, ha spiegato, chiamerei un diritto di generalizzare. Il significato ben preciso nel contesto immediato, dice la Torah, gramma tradurre con Torah. Poi lei ha detto che nel contesto più ampio si può in un certo senso generalizzare, cioè allora gramma può dire il Nuovo Testamento letto senza l'unione con Cristo uccide. O ancora di più generalizzato il nuovo, un testo isolato, anche quello uccide. Adesso io, per parlare di isotopia, io vedo bene che la prima spiegazione, gramma come Torah, trovo molti punti, come dire, trovo quell'isotopia, cioè questo concetto sparso per tutto il testo nel contesto. Per gli altri due ho un po' di difficoltà, perché quello di spiegare nel contesto è un po' ampio. Adesso se come trovare quell'isotopia, cioè come trovare nel testo elementi con il significato il Nuovo Testamento letto senza unione con Cristo o il Nuovo Testamento isolato. Perché mi pare quello che dice Kelseman e Bultmann, sono cose ben dette forse con tutto San Paolo, mi pare quasi che si possa servire di questo detto di San Paolo per dare un riassunto di proprie idee, non sbagliate, proprio bellissime, del tutto giuste, però non trovo qui l'isotopia nel testo. Questa è la mia domanda. Grazie. Primo è di dire che Käsemann, specialmente e Bultmann, prendono questo testo per esplicare la teologia lutera, Gesetz und Evangelium, provare con questo testo. Direttamente non è scritto in questo. Ma dall'altra parte penso che anche nel nostro capitolo sono indicazioni che è giusto di attendere alla vocabola gramma e di prendere soltanto, almeno in un ambiente come noi, gramma, un'indicazione che è la possibilità di accogliere un testo in una maniera non giusta. Si trova una piccola indicazione nel nostro capitolo, nel versetto 3, Engregamene umedani alla pneumati, dove è detto che una distinzione, creazione per pneuma e creazione in cuore di, come si dice, di pietra. E si trova inoltre una indicazione anche nel testo quasi isotopia, quando nei versetti 15 a 18 e dalla porosis del kalima la parola che i giudai non possono apprendere il valore della legge perché i loro cuori sono quasi pietre. E ciò per me dà la ragione di apprendere anche come l'ha fatto la tutta la Chiesa, ma inoltre vi concesso che questa interpretazione nel senso traslato è davvero una traslazione e non più la esplicazione o il significato originario. Ma questo, la validità di questa interpretazione di senso traslato non viene dalla parola del versetto stesso, ma del contesto della Sacra Scrittura insieme. Questo che dice per me in una maniera molto buona Urs von Balthasar im Ganzen. E dunque anche questa interpretazione di Käsemann o di Agostino non è senza contesto. E anche in un contesto, ma non nel contesto stretto, ma nel contesto di tutta la tradizione, di tutta la Chiesa, di tutta la Bibbia. E Urs von Balthasar è anche corretto, dice che una parola riceve la sua o la sua significanza, il senso del Ganzen, del tutto. Perché una parola per se stesso è sempre un po' also isolato e non è la verità. Tutti i dogmatici possono dire questo meglio. Grazie, sono contento. Allora la domanda del professor Vitti, se ci sono altre domande da trattare. Vorrei riprendere quest'ultima idea che lei ha richiamato, la citazione di San Balthasar. Cioè mi sembra, forse ho capito male, ma mi sembra che nel suo discorso ci sia una certa sovrapposizione, o forse identificazione, tra il principio della totalità, chiamiamolo così, sì, come principio ermeneutico generale, di ogni testo, di qualunque testo, e invece un principio della totalità specifico della Bibbia. Per dire, il primo è il principio appunto del contesto che si allarga sempre di più, la parola, la pagina, l'opera, le opere dell'autore, le opere di tutto il momento culturale. È uno dei primissimi principi ermeneutici, perché già Schleiermacher lo formulava. Sì. E, ecco, quando però si parla della Bibbia, il Ganzes è qualcosa d'altro ancora, perché non è, la Bibbia non è né una pagina, né un libro, né un assieme di opere dello stesso autore, né un assieme di opere dell'epoca dell'autore, ecco, e quindi né un mondo culturale, ma è una pluralità di libri e anche una pluralità di mondi culturali. Allora qui il principio della totalità, un principio della totalità specificamente biblico, non può più richiamarsi, mi sembra, ecco, al primo, il principio della totalità ermeneutica generale, deve richiamarsi a qualche altra cosa. Ecco, a che cosa? Alla Wirkungsgeschichte, a me sembra molto problematica, no? Perché la risoluzione, mi pare, meglio la leggo così, che la risoluzione del senso del testo nelle sue interpretazioni. Ecco, e insomma, a me non convince, almeno nella formula, diciamo, dura, forte che le dà Gadamer. Oppure in quale altro principio? Lo Spirito Santo, ecco, che illumina, non mi sembra anche questo sufficiente. Ecco, il principio della tradizione. Quale tradizione? La tradizione ortodossa vuol dire non essere ortodossa, perché giusta, vera, e non quella eretica. Ecco. Ma la tradizione ortodossa è veramente unitaria, ecco, per cui supponiamo non possono nascere dentro di una tradizione ortodossa due letture così profondamente diverse da essere proprio conflittuali, difficilmente componibili come certe letture, per esempio materialiste rispetto a certe letture tradizionali, e questi chiamano appunto spiritualiste e rifiutano riesco a vedere, chiedo se in questa riaffermazione della Bibbia come totalità siano stati rienunciati dei principi oggettivi, tra virgolette, che permettono di fare una lettura, dove insomma leggendo la lettera a Filemone, nella lettera a Filemone si ripercuote Genesi 1, per dire. Così c'è qualcosa di oggettivo che permetta di controllare, diciamo, questo, o se invece è proprio lasciato all'allegria dello spirito o di qualche altro principio che è difficile prendere in mano. Non so se sono riuscito a formulare. Sì, grazie. Se posso rispondere in questa maniera, sono, se io ho capito bene, due maniere di avvicinarci a un testo. L'una maniera è di avvicinarci nella maniera storica, di prendere qui la lettera a Filemone, la lettera ai Romani e qui la lettera agli Ebrei, l'Apocalisse, e prendere ognun testo e badare sui differenti enunciati. Ma questo per me è un metodo, sì, ma un metodo costretto e unilaterale. E questa parola, doch neuma zur poei, per me segnalò che noi siamo costretti, se noi siamo cristiani e seguendo San Paolo. Non possiamo limitarsi a prendere la parola di Corilet, nella prima, o la parola di Giotto, o l'altra, ma noi dobbiamo prenderlo nello Spirito Santo, e questo è per Paolo e per tutta la Chiesa, questo che avviene, e così San Paolo può leggere il Vecchio Testamento con occhi nuovi, nella sua totalità, e per lui il Vecchio Testamento diviene una parola, come si dice, vivente, un lebendiges sforzo, e la verità di questa parola che Paolo capisce non viene dai grammata, dai buchstaben, dalle lettere stesse, ma viene di tutto il complesso, perché il conoscere è un processo più complesso, e viene, e per me questo versetto vuol dire questo, che pneuma zur poei, che la vita nella Chiesa viene dello Spirito Santo, e così anche in questo senso posso prendere questo versetto come principio ermeneutico, la giusta interpretazione della Bibbia proviene, se io lo prendo in tutta, perché noi abbiamo tutta la Sacra Scrittura, e dopo il canone non posso come cristiano prendere il libro Coelet soltanto in questa maniera come era scritto nel Vecchio Testamento. Questo posso prego. Forse non riformulare tutta la domanda, ma sintetizzarla così. Questo collegamento della parte alla totalità biblica rimane comunque linguistico, cioè rimane il collegamento di un testo, di due testi, ecco, proprio in quanto testi, quindi rimane linguistico, oppure ecco, è legato a qualche altra cosa, può anche essere extralinguistico, cioè vuol dire, ecco. No, per me non è pure linguistico, ma è lo spirito, dunque è il complesso totale di apprendere il testo. La linguistica ci può giovare di illustrare questo processo. E per me il valore della linguistica è questo, dimostrare che l'interpretazione storica critica è unilaterale, è soltanto un aspetto del testo e della verità. che apprendere un testo è un processo più complesso e comprende di più. Questo è follow up. Professor Sartori, poi chi è che c'è notato? Dunque il professor Kurt Eicher, poi c'è il nome per cortesia. Grazie. Ma io forse sono il primo non biblista, quindi devo confessare che mi sono trovato molto bene nella sua prospettiva, perché ha mostrato come anche a partire dalla Bibbia si può aprire un discorso che supera la lettera o il senso letterale, ma senza per questo arrivare a un senso arbitrario. Allora, prima vorrei fare una domanda che deriva dalla mia ignoranza, forse lei è stato veloce, molto semplice. Lei ha parlato a un certo punto dell'Antico Testamento, dove ci sono il metodo critico, detto, è stato messo in crisi, se ho capito bene, anche dal fatto che si è scoperto che c'è in fondo una continua reinterpretazione anche a livello dell'Antico Testamento. E anche nel Nuovo Testamento. Quindi siamo di fronte a un processo di continuo superamento della lettera precedente per una nuova, direi, riformulazione. Io volevo sapere in che misura, eventualmente, se ho capito bene, questo processo che ha scoperto strati più profondi, eccetera, per cui il testo che abbiamo adesso non è stato stilato così improvvisamente, ma è il frutto di una lunga reinterpretazione. Mi domando in che senso ha messo in crisi il metodo storico, ma è una domanda, però non è questa che mi interessa. Io invece volevo dire questo. Il mio problema è questo. Mi sembra che si resta dentro l'antitesi Antico e Nuovo Testamento, come se l'Antico fosse lettera e il Nuovo lo spirito. Io volevo vedere se si potesse allargare il processo, perché lo spirito anche nell'Antico Testamento esisteva. Quindi questo superamento continuo di una tendenza letteralizzante, sclerotica, per cui c'è sempre il bisogno di riscoprire lo spirito al di là della lettera, mi sembra che dimostra un allargamento della prospettiva. Per cui allora il problema di oggi per noi non è soltanto quello del rapporto tra Antico e Nuovo Testamento, ma dentro la storia della Chiesa la possibilità di continuo superamento di tendenze letteralizzanti, di tendenze che sono fissate alla lettera, e di continuo bisogno di reinterpretazione. Allora a me veniva in mente, finché lei parlava, a questo fatto, più che dire in Cristo e col Nuovo Testamento abbiamo finalmente lo Spirito, io farei più leva sul fatto che secondo San Giovanni, secondo il primo discorso di Pietro, prima lo spirito era dato su misura, cioè parzialmente a frammenti. Il Nuovo Testamento invece con Cristo è lo spirito dato a tutti. Allora in questa abbondanza di spirito c'è più possibilità di far valere la coscienza, adesso non voglio essere soggettivista, ma insomma, di far valere la interpretazione, non soltanto quella ufficiale, quella, diremo, che nell'Antico Testamento forse è venuta fuori pian pianino con difficoltà, ma nel Nuovo Testamento ognuno ha il dono dello Spirito, allora non c'è contrapposizione tra top pneuma, come un'astrazione, e il nous o il pneuma del singolo. Ma siamo nell'era in cui ogni lettore che accede alla Bibbia, soprattutto se sta con la teologia del Gantz, ma in senso di pneuma, non soltanto quel Gantz letterario, ma nel senso di pneuma, ogni lettore è convocato praticamente in un circolo dove deve sentirsi responsabile di non soltanto scoprire il senso, ma quasi di rigenerarlo. Mi scusi. Grazie. Vorrei rispondere prima. La credo soltanto questo, per esempio, che sono i vari strati anche nel Nuovo Testamento. Cioè, sono tanti esegeti e, per esempio, Sidepex si è affidato a queste che dicono nella comunità di Cru non si credeva in riduzione di Gesù Cristo, nelle comunità di Cru si vedeva in Gesù Cristo soltanto il profeta grande. E poi veniva un'altra, e questo sono, e per esempio Bultmann dice, ok, mal il Vangelo di Giovanni è un Vangelo eretico. E sì, hanno scritto, ma se cristiani, se studenti leggono questo, dicono, ma dove è adesso la parola di Dio? Se Giovanni è eretico, se, yeah, soltanto San Paolo è cattolico o protestantico, ma dove la verità? E questo è un punto che ha anche condotto alla crisi di questa, ma un'altra ragione è che adesso invece nel mio tempo di studio a Roma, oggi ognuno studente, lo conosco questo meglio, trattano nella filosofia del linguaggio, della lingua. Io a Roma nei 3 anni alla Gregoriana ho mai sentito la parola di questo, e Wittgenstein a Roma non ho sentito in questa maniera. E così anche l'ambiente si è cambiato. Dall'altra parte, grazie molto, perché ho dimenticato di dire questo, che il nostro versetto è una formulazione polemica. Se Paolo dice dogramma apoktene, non vuole dire, se prendiamo tutti gli altri scritti di San Paolo, che il Vecchio Testamento insieme va a uccidere. Perché nella lettera ai Romani ha detto che nomos est pneumaticos, pneumaticos est in. E così dobbiamo dire, e io anche penso che nel Vecchio Testamento era già lo Spirito Santo, e non soltanto in piccola misura, perché noi possiamo dire che anche i profeti avevano lo Spirito Santo. Ma questo è che nella era di Cristo lo Spirito Santo ci è dato in una maniera nuova, vorrei dire forse col Conrana, sacramentalmente, in una maniera speciale, e ciascuno ha lo Spirito, sì, ma qui avviene questo che detto, che pneuma preso Paolo significa anche il pneuma concreto e legato alla comunità cristiana. E così la propria ispirazione, si dice, deve sempre essere messo in collegamento con tutta la Sacra Scrittura e con la Chiesa. E il dovere della, il compito delle esegesi, e specialmente anche della esegesi storico-critica, rimane il valore anche delle esegesi storico-critica, è questo, che l'interpretazione della Chiesa viene sempre, sozusagen, un pochettino anche messo, di si mettere al contesto e di non rivolgere a frutti come per esempio nel Medioevo, come Spiritus vivifica, che cose strane si è scritto e anche provato tutto con lo Spirito Santo, per esempio questo nelle parabole costringete compellite entrare per esempio per gli imperatori e così, nel caso anche, e qui è l'obbligo e il compito dell'esegesi anche della scienza, ma la scienza non è, vorrei dire, tutto il messaggio della Chiesa e tutta la dottrina della Chiesa, la scienza è una parte di Evangelio. Grazie. Questo professor Kurt Egger. Se permetto, ma non sono istruttore, come sono stato chiamato prima. Sono due domande sulla metodologia da lei usata. La prima domanda è come ha fatto a isolare questa frase dal contesto? Perché lei ha spiegato con il numero 3-5 che lei ritiene questa frase una specie di commento. Sì. Allora vorrei una dilucidazione, come ha isolato la frase attribuendole un senso compiuto? Perché da quello come lei ha poi esposto, la frase mi pare ha puntato molto sul contesto, e non ho dubbi che questo sia anche stato fatto alla ragione, ma anche forte del metodo storico politico, ma non doveva essere una delle conclusioni della sua relazione che questa frase non deve essere isolata, ma bisogna mettere almeno due frasi prima e due frasi dopo, specie se lei dice che è un commento. Sì. E l'altra domanda è questa, è una frase molto breve, che uno che non sa niente del metodo storico critico e non ha letto tutti i volumi, come riesce a capire la frase? Perché ci sono i vocaboli gramma e verma e potente e dopo, uno può farsi subito un'idea che uno dei tratti semantici di gramma va che uccide ed è il neoma che dà la vita, ma quali sono gli altri tratti semantici? O forse è solo per caso che questa volta sono questi due che sono uniti, gramma e uccidere e spirito italiano. E tu poi la seconda domanda non ho capito bene, ma posso la prima domanda ho capito bene, ma la seconda non è divenuta tanto chiara per me. La seconda, che uno che non sa niente come il lettore moderno, sì, che non ha studiato più tanta scrittura, come riesce a capire questi vocaboli se sa solo questa frase? Bene. E questo chiedeva anche implicitamente se ci sono altre convergenze, no? Del termine gramma con apocteino e pneuma con zoopoieia. Sì, ma se io ho capito bene, penso in questa seconda domanda a quello se io prendo questa frase isolata, dunque come uno può capire senza prendere isolata. Questo è giusto, perché ma ciascuno la ascoglie sempre già nella chiesa e nel tutto ambiente. Ma posso, prima ho detto è un commentario, e come commentario è quasi una glossa quasi una, come si dice anche, ho scritto anche una sentenza, ha un significato vero. Ma è una sentenza che Paolo ha formulato qui dal contesto. E nel contesto ha una significazione stretta, ma questa significazione stretta nel contesto ha un fondamento più alto, questo che è nella Chiesa primitiva l'esperienza, la morte di Gesù, la vita dato per lo Spirito, la predicazione che l'uomo è un uomo che quando ha soltanto la Torah non riesce a vivere e riceve la vita di Gesù Cristo. E così è già un testo, ma un commento che è un po' più alto, che è gefordert, richiesto qui dal contesto immediato. Così che noi abbiamo che la formulazione nel contesto ha un senso stretto, ma questo senso stretto di sé ha un fondamento nella predicazione che ci mostra che lui è adatto di avere un senso più alto. E questo che io ho detto nell'ultimo punto di queste due condizioni, un testo può essere interpretato in senso traslato se è in sé omogeneo e se e ha in sé anche la possibilità di essere compreso come una significazione più alta. Per esempio, se io prendo la parola luce, questa parola luce ha quasi in sé una significazione che può essere presa per la luce elettrica, ma anche per la luce che mi viene in mente e per la luce che è Gesù Cristo. Che anche, perché è probabilmente domani nella conferenza di Padre Alonso Schöckel sentiamo questo. Per esempio, i poetici lavorano sempre con questi motivi e con questi metafore. E questo che io penso che una interpretazione, come l'hanno fatto i padri nella Chiesa e come l'ha fatto, per esempio, se io prendo un esempio, se nella prima Chiesa si è raccontato che Gesù ha fatto dei miracoli di ammalati che sono stati quasi guariti, si è già detto che quasi morti sono stati vivificati, la Chiesa e già pure anche i Vangeli hanno visto in un senso più profondo, per esempio San Giovanni, questo cieco si deve lavare in un fonte che ha il nome Cristo, cioè vede in questo miracolo un simbolo del battesimo. E così, e questa è la significazione di questo. Forse è una risposta. Io vedo che il tempo corre paurosamente, però credo che ci sia, ecco, tempo ancora per la domanda. Professor Goffi, rinuncia alla domanda. Se il tempo, una domanda è già... Ecco, brevissime, ecco, se, eventualmente. Ma se, no, io lascio questa. No, se no, mi è piaciuto molto l'importanza della Chiesa che lei ha dato, perché talvolta si ha dei dubbi, no? Che critici ai cattolici o anche ai sacerdoti dicono, leggono la Bibbia, quelli dei gruppi carismatici, non messi dentro nel contesto ecclesiale di altri. Questo mi è piaciuto molto, e poi che ha dato l'importanza ai commenti dei padri. Adesso io sono anche contento che nel nuovo breviario, no, sia tedesco come italiano, sono tanti commenti dentro, e lì se si legge talvolta si ha l'impressione cosa si è studiato, ma io avrei sempre ancora un desiderio di avere un'antologia un po' non troppo larga, perché quando si fa una predica o così, no, non si ha per tutto un bel commento di Crisostomo, di se esistono o se come lei un'esigenza di stima, no? Pensa anche magari sull'università di fare una volta una antologia che noi sacerdoti fuori possiamo averla, no? Perché un collega di me, Kresshake, fa adesso un'antologia dei testi spirituali dei padri. Allora, grazie. No, ma ce la facciamo. Ce la facciamo. Io non sono un biblista, quindi sono molto profano. Deve perdonare se dico una cosa molto stravagante. La teologia morale oggi, fra le preoccupazioni che ha, di fondarsi sull'esperienza. Posso io, ciò che lei ha detto in modo molto suggestivo, che c'è molto stimolante, posso io fare questa applicazione o deduzione dicendo così? La parola ci presenta l'esperienza, tra l'altro, della Chiesa primitiva. Il che significa che interpretare la parola bisogna interpretarla primariamente su questa esperienza nello spirito, questa esperienza ecclesiale. Ora, se è un'esperienza che sta a base della parola, l'elemento primario attualmente della morale che non può mai rinunciare dal confrontarsi sull'esperienza della Chiesa primitiva autenticata nella parola, ma deve primariamente basarsi sull'esperienza ecclesiale nello spirito e la parola interpretarla in questa esperienza ecclesiale dello spirito odierna, esperienza odierna. Non so se mi sono spiegato. In quanto ho capito, non per me è un'alternativa, perché anche questa esperienza della Chiesa primitiva è un'esperienza anche aperta e libera, e non tutto è già fissato e così. Per me questa interpretazione in senso ecclesiastico non vuol dire che tutta parola che Paolo ha scritto è, per esempio, le donne deve mettere un scoperto o qualche cosa, deve essere così anche per noi. Questo non vuol dire. E per me è più libero anche. Ma le linee generali sono quelle, è anche un dovere e un compito di accogliere, di confrontare le esperienze odierne con la Sacra Scrittura, con l'esperienza della Chiesa primitiva, e così di trovare lo spirito. Quello che io ho detto sul senso spirituale, mi pare, io non so, ma penso anche perché ho trovato anche che Orson Balthasar, che ha trovato questo Cesare Karl Barth, non è contro la dottrina cattolica, perché almeno nella Germania Orson Balthasar quasi è defensor, è quasi un malius hereticorum, si può dire, almeno che il senso spirituale non è quasi un senso fissato nelle lettere, ma un senso fissato sempre di un colloquio vivace tra il testo e le esperienze odierne nel compito di tutta la Chiesa. E non è tutto già fisso, e spesso dobbiamo aspettare qualche cosa. E Gesù, io prendo spesso l'esempio, o anche ai Galati nel capitolo 5, il frutto dello Spirito. Ma finché esce il frutto, bisogna avere tempo. E così anche non si può sempre riconoscere il momento cosa vuol il Signore. Per esempio, un problema attuale per me. Perdoni una battuta che la lasci cadere. Come fa allora l'esegeta a interpretare autenticamente il testo se si limita solamente al contesto della Chiesa primitiva? No, io non dico al contesto primitivo dell'esperienza. Allora la deve rivedere. Sì, sì. Lo rivede secondo. Sì. Non solamente secondo, direi, metodi interpretativi odierni, eccetera, così, ma anche come contenuto. Sì. Ah, mi piace. Io devo... possiamo... Allora, vedo che siamo costretti dalla tirannia del tempo, dalla tirannia dell'orologio. Io pregherei adesso, scendendo giù, andiamo... tutti a cena, però vi informo... ma solo per informazione, che alle 8:30 in città, in via Barbacovia, Centro Clesio, Monsignor Sartori presenta il dizionario di spiritualità recentemente uscito a cura delle edizioni Paoline, e dunque dico solo che chi avesse piacere, vero, può intervenire alle 8, alle 20:30.